Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera parliamo di un sentimento e di una condizione che ci hanno dominato nelle scorse settimane, il sentimento e la solidarietà di cui continueremo ad avere certo bisogno e la condizione e la solitudine che speriamo di poterci mettere rapidamente alle spalle. Queste note tratte da un celeberrimo musical italiano, Aggiungi un posto a tavola, di Garinè e Giovannini, musicato da Armando Trovajoli e interpretato nella prima edizione del 1974 da Johnny Dorelli, ci hanno introdotto al sentimento, alla solitudine che abbiamo apprezzato in tantissime circostanze e che è stata manifestata da tanta gente comune che col loro lavoro, la loro attenzione, la loro cura hanno mostrato di sapersi e volersi prendere cura degli altri. E questo non è stato un fenomeno solo italiano. Pochi giorni fa, per esempio, sul Financial Times, Tim Harford osservava come il coronavirus abbia fatto giustizia di una visione cupa del genere umano, una visione sbagliata, persistente e controproducente, diceva l'autore, quella visione basata appunto sull'egoismo, sul sentimento di guerra costante e continua di ciascun uomo contro tutti gli altri uomini e donne. E secondo Harford la verità che ha messo in luce anche questa esperienza è che la gente nelle crisi si comporta in maniera civile, e questa conclusione non avrebbe sorpreso l'autore del libro che vi presento questa sera, cioè Piotr Kropotkin, un poliedrico personaggio russo vissuto tra il 1842 e il 1921, proveniente da una famiglia di nobile lignaggio, che fu scrittore ma anche filosofo, geografo e zoologo, è noto soprattutto per le sue posizioni anarchiche, di cui fu uno dei più noti rappresentanti, in particolare del filone anarco-comunistico. Proprio lo studio degli animali ispirò a Kropotkin questo libro, pubblicato a Londra nel 1902, dove l'autore raccolse saggi che sul comportamento degli animali aveva redatto studiandoli sul campo, in particolare in Siberia. Lì Kropotkin scoprì come proprio le condizioni estreme di quella terra favorissero la collaborazione per combattere le difficoltà comuni dell'ambiente, e studi ulteriori condotti per esempio sulle aquile e perfino sui leoni confermarono questa conclusione. La solidarietà, non la competizione o il semplice adattamento, è la chiave della convivenza. Il libro fu tradotto nel 1925 in Italia, ma dalla traduzione francese, e ora è presentato nella traduzione della versione originale in inglese, è curata da Giacomo Borella, che ha anche tradotto il libro assieme a Daniela Engel. Il titolo è Il mutuo appoggio, un fattore dell'evoluzione, pubblicato da Eleutera, 390 pagine, 20 euro. In questo libro Kropotkin non si limita a studiare con intuizioni geniali e spesso anticipatrici degli studi di etologia il mondo animale, con un approccio che non rinnega l'evoluzionismo di Darwin, ma intende chiarirne il funzionamento, ma soprattutto vuole applicare all'uomo le sue conclusioni. In particolare Kropotkin vuole contestare il darwinismo sociale, ossia la tesi che la lotta per sopravvivere di ogni uomo contro gli altri uomini sia una legge di natura, e infatti a un certo punto scrive: non è l'amore per il mio vicino, che spesso non conosco per nulla, che mi spinge ad afferrare un secchio d'acqua e a precipitarmi verso la sua casa quando vedo che sta bruciando, ad animarmi, è un sentimento, un istinto molto più ampio, anche se più vago, di solidarietà e di socievolezza umana. Per sviluppare il suo ragionamento, dopo due capitoli iniziali dedicati agli animali, Kropotkin studia lo sviluppo sociale della collaborazione, prima nella città medievale, poi nel mondo a lui contemporaneo. E sono affascinanti le pagine sul Medioevo, che non fu, secondo l'autore, un periodo di dissoluzione della vita comunitaria, che poté continuare grazie a due istituti, quali il possesso comune della terra e l'autogiurisdizione, che a loro volta consentirono la formazione delle città libere, nelle quali poi si sviluppò l'esempio più significativo di solidarietà in campo economico e sociale, Gilda, un esempio di corporazione basata su concetti di fratellanza, appunto, e autogiurisdizione. Secondo l'anarchico Kropotkin, fu lo Stato moderno ad abbattere questo sistema solidale. Ma il senso di solidarietà non si è esaurito e su questo si può ancora contare, come proclamano le righe conclusive del libro. In breve, né il potere schiacciante dello Stato centralizzato, né gli insegnamenti di disprezzo reciproco e di lotta spietata, ornati con gli attributi della scienza e impartiti da filosofi e sociologi compiacenti, sono riusciti a sradicare il sentimento della solidarietà umana, profondamente impresso nell'intelletto e nel cuore dell'uomo, perché è stato coltivato in tutti i precedenti stadi della nostra evoluzione. Ciò che è stato il risultato dell'evoluzione fin dai suoi primi stadi non può essere sopraffatto da uno degli aspetti di quella stessa evoluzione. E il bisogno di mutuo appoggio e di aiuto reciproco, che in tempi recenti aveva trovato rifugio nella stretta cerchia familiare o tra i vicini del quartiere povero, nel villaggio o nel sindacato clandestino dei lavoratori, si afferma di nuovo anche nella nostra società moderna e rivendica il suo diritto di essere, come è sempre stato, la guida principale verso ogni futuro progresso. Sono queste le conclusioni alle quali siamo necessariamente arrivati. Dopo la solidarietà, la solitudine, sperimentata spesso in forme molto simili a quelle cantate qui da Enrico Ruggeri. Noi barricati in casa a respirare solitudini e ci attacchiamo a macchine come malati terminali di malinconia. Guardiamo negli schermi le altre vite che ci scorrono, le persone che passano e ci lasciano fuori. La crisi di queste ultime settimane l'ha evidenziata, questa solitudine l'ha resa più drammatica. La solitudine infatti è già una condizione molto diffusa, non solo tra gli anziani, in proporzioni tale da farla considerare da parte di molti esperti come una vera e propria epidemia. Sulla solitudine è uscito anche proprio in questi giorni un libro in inglese di David Vincent, che è uno studioso inglese, appunto, che ha scritto A History of Solitude, pubblicato da Polity, 304 pagine, $35. Ma il libro di cui vi voglio parlare a proposito di solitudine è quello di Mattia Ferraresi, giornalista del Foglio, che pubblica con Einaudi, appunto, Solitudine, il male oscuro delle società occidentali, 228 pagine, €17. Ferraresi inizia il libro dandoci un quadro documentato della diffusione della solitudine, un fenomeno dai numeri impressionanti e dall'impatto in certi casi devastante, come quello che si determina sui ragazzi hikikomori, il termine giapponese col quale si definiscono, secondo Ferraresi, i giovani eremiti postmoderni che si rinchiudono in casa e lì consumano la propria vita in solitudine, rinunciando a tutti i rapporti umani, a eccezione di quelli mediati e opportunamente distorti dalla tecnologia. Anche i NEET, l'acronimo ormai popolare che definisce i giovani che non studiano, non lavorano e non cercano un mestiere, è un'espressione dello stesso fenomeno, che trovo ulteriore conferma nella riduzione dell'attività sessuale che è in atto tra le più giovani generazioni. Sintomo a sua volta, secondo l'autore, di una visione del sesso non più visto come un atto organico e intrinsecamente relazionale, dotato di valore effettivo o perlomeno di una pragmatica efficacia procreativa, ma come un passatempo arelazionale da consumarsi senza attaccamento interpersonale o conseguenze biologiche. Dopo la descrizione, l'analisi. Perché siamo soli? Per Ferraresi questo è l'esito di un individualismo esasperato che domina la nostra civiltà e che egli riassume in queste righe. Il cortocircuito, in sintesi, è questo. Abbiamo scelto la solitudine di cui ora ci doliamo. È il risultato di un progetto di vita deliberatamente architettato e messo in atto. La patologia che oggi viene da tutti riconosciuta e denunciata come malattia conclamata è l'esito inevitabile di una concezione che invece prometteva liberazione, prosperità e pursuit of happiness, secondo l'espressione che la Dichiarazione di Indipendenza americana ha elevato al rango di diritto inalienabile. nel compimento di quell'entusiasmante processo di liberazione da vincoli, dogmi, tradizioni, autorità e strutture che va sotto il nome di modernità, l'individuo si è infine scoperto solo e con una certa sorpresa ha trovato questa condizione, conquistata con tanta fatica e sacrifici, piuttosto desolante. Il paradosso è ancora più profondo. La solitudine è diventata un allarmante fenomeno di massa proprio quando abbiamo realizzato in massimo grado le nostre aspirazioni di indipendenza. Non è successo a dispetto dei progressi raggiunti in fatto di libertà e diritti individuali, ma in ragione di questi. La storia della modernità può essere descritta, in modo semplificato ma senza tradimenti, come la storia di uno smantellamento, un sistematico processo di demolizione. Che cosa si intendeva demolire? In una parola, tutto. L'analisi è eloquente, poi Ferraresi la sviluppa, puntando il dito contro il fatto che il mondo non è più, come è stato per secoli, una fitta rete di rapporti e rimandi nella quale le vite, tanto del principe quanto del contadino, partecipavano in modalità diverse a un comune progetto regolato dalla combinazione dell'ordine celeste e di quello terrestre. E qui l'autore passa in rassegna le tappe di questa trasformazione, denuncia la solitudine come l'esito delle contraddizioni liberali, così la definisce, affronta le conseguenze politiche della diffusione di questa tendenza che si esprime nel successo delle politiche identitarie e conclude con una visione molto attuale, quella dell'io fragile senza il tu al quale rivolgersi, protagonista di una solitudine che secondo Ferraresi si configura come assenza di significato, di cui è simbolo lui. Esatto, la risata di Joker, la cui maschera scolorita dice qualcosa di noi, secondo l'autore. E allora, per ritrovare un tu, Ferraresi propone di tornare alle domande sepolte sotto gli strati delle risposte inadeguate, delle infinite forme di distrazione. E ci possono venire in aiuto figure insospettabili, come quella di Giacomo Leopardi, che secondo Ferraresi non è il cantore di un sepolcrale pessimismo, ma il portatore di domande fondamentali. Oppure oggi Michel Houellebecq, la cui opera contiene lo sforzo, sempre secondo l'autore, estremo del soggetto di superare il dirupo del nulla. E le ultime pagine sono dedicate alla religione, vista come costruttrice di senso e di comunità, e che oggi si manifesta in un mondo in cui il numero di atei, contrariamente a quanto si crede, non va aumentando ma va diminuendo. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo tra pochi istanti. Si farà l'esposizione universale del 2015, si farà, sentite la gioia della sala, sentite la gioia dei delegati. In Francia e in Irlanda è stata un successo. La vendita al pubblico dei kit in euro è possibile oggi anche in Italia. 8 differenti pezzi, da un centesimo a 2 euro. Tutti i giorni a Radio 24 raccontiamo il mondo, approfondiamo le notizie, documentiamo i fatti, ma non solo. Da oltre 20 anni produciamo trasmissioni culturali e di servizio, trasmettiamo radiodocumentari e generiamo conoscenza. Cosa sono le isole? Lo scopriremo oggi, ma partiamo ovviamente dalle risposte che ci hanno dato i nostri giovani ascoltatori. Poteva in una trasmissione dedicata all'acqua mancare lui? Leonardo da Vinci. Winston Leonard Spencer Churchill nasce il 30 novembre 1874 a Woodstock. In queste settimane di emergenza rinnoviamo il nostro impegno e offriamo il nostro contributo al mondo della scuola. Radio 24 ha creato una sezione online dedicata al proprio archivio, a disposizione degli insegnanti e degli studenti per la didattica a distanza. Podcast di scienze, storia, geografia, letteratura da scaricare, da ascoltare e condividere, con interviste e approfondimenti di alcuni dei programmi storici di Radio 24. Si parte con le biografie del Novecento, le regioni d'Italia, la scienza dell'acqua. E in più, ogni settimana, su radio24.it, verranno aggiunti nuovi contenuti. Radio 24 per la scuola. La passione si sente. Un libro tira l'altro. E uno degli aspetti sollevati da Ferraresi non sfugge alla letteratura per ragazzi. Il confettino. Il fenomeno dei ragazzi Kikomori è presentato ai loro coetanei da Alice Keller, scrittrice, libraia, Ravenna, autrice di AFK, un acronimo che sta per Away from Keyboard, lontano dal computer, pubblicato da Camelo Zampa, 110 pagine, 12,90 €, dove troviamo un giovane Joe, rintanato in casa da 2 anni, continuamente intento a smanettare sul computer, per il quale l'unico contatto con la realtà fisica è rappresentato dalla sorella Emilia, considerata un modello di normalità. Eppure sarà proprio la sorella a dover fronteggiare una grave difficoltà, costringendo il fratello a uscire dalla sua bolla. E nel libro troveremo le due voci del fratello e della sorella, che testimoniano col linguaggio spesso crudo delle generazioni più giovani le rispettive fragilità, che culmineranno nella speranza che tutti, giovani e anziani, possano, come dice il libro, capirsi qualcosa tutti. Mentre il fenomeno degli hikikomori è illustrato agli adulti nel suo significato e nelle sue dimensioni da Marco Crepaldi, che diventò esperto del tema all'università, dove studiava psicologia sociale, che poi ha fondato la comunità italiana più importante dedicata a questo fenomeno, Hikikomori Italia. Crepaldi ha pubblicato con Alpes Hikikomori, i giovani che non escono di casa, 124 pagine, 13 euro, nel quale in particolare Crepaldi sottolinea il rischio di trascurare un fenomeno che in Giappone, il paese che ha coniato appunto la definizione dei giovani soli, ha colpito ormai oltre 500.000 casi accertati. E la solitudine fu una dimensione importante nella vita di una poetessa tra le più significative del Novecento, Amelia Rosselli, la figlia di Nello, l'eroe antifascista, di cui Neri Pozza pubblica una biografia scritta da Renzo Paris, scrittore e poeta, e intitolata Miss Rosselli, 236 pagine, 18 euro. Una delle poetesse più stimate e magiche del nostro paese, definisce Paris la poetessa. L'autore conobbe bene Rosselli, la conobbe, la frequentò anche negli anni difficili successivi ai ricoveri in cliniche psichiatriche che sarebbero sfociate nella drammatica decisione della Rosselli di togliersi la vita nel 1996. Tra l'altro ricordiamo che proprio pochi giorni fa è caduto il 90° anniversario della nascita di Amelia Rosselli, e il libro si dipane in una lunga passeggiata che rievoca e fa rivivere Rosselli con parole partecipi e commosse, come testimoniano queste righe. Amelia non viveva nella luce della storia, ma sprofondava nel mare nero dell'inconscio, da cui solo con la poesia e la musica le era permesso di riaffiorare. La creazione poetica era la sua unica letizia, come il piacere dell'arido vero di Giacomo Leopardi, altro grande sofferente. Le persone che abbiamo amato, una volta scomparse, ci hanno lasciato qualcosa, un modo di camminare, un modo di parlare, un vezzo, uno sguardo. A me, Amelia, ha lasciato lo sguardo radente di quando si appostava all'angolo di una strada per incontrare se stessa, temendo di essere un vaso vuoto. L'antidoto alla solitudine è la folla, l'immergersi fiduciosi in quelle manifestazioni di vita associata nelle quali spesso cerchiamo il rumore e la confusione proprio per non restare o per illuderci di non restare soli. Gli ultimi anni ci avevano reso familiari, abitudinari e perfino banali tante di queste manifestazioni alle quali vogliamo disperatamente tornare per non farci sconfiggere dal coronavirus. Vogliamo tornare per esempio a girare il mondo, magari correndo il rischio di quella banalizzazione del viaggio nella quale spesso anche noi italiani rischiamo di cadere, come mettono alla berlina i Pantei a St. Julie. Ci facciamo riconoscere appena arriviamo, siamo turisti per caso, parliamo solo italiano, siamo esperti della moda, ciabatte con le calze rosa, lasciamo il conto da pagare al ristorante in riva al mare. E la via italiana alla vacanza viene accuratamente e umoristicamente descritta da Fabrizio Patriarca, scrittore e saggista, nel libro Tropicario Italiano, 66 and Second, 152 pagine, 15 euro. Un libro doppiamente godibile perché ci riporta a un mondo che esso più o meno affettuosamente irride, ma dal quale ci accorgiamo di essere molto nostalgici e smaniosi di poter rivivere quello dei viaggi di massa tanto cari agli italiani. Ed ecco allora che le mete più popolari, Bora Bora, Bangkok, Abu Dhabi, Dubai, le Mauritius, la Tanzania, le Maldive, sono l'occasione per mettere in luce italici tic, fissazioni, vizietti. Il narratore racconta di essere lui stesso figlio di un dipendente dell'Alitalia, dunque abituato a volare bene verso mete lontane. Poi i privilegi familiari finiscono, ma non la voglia di viaggiare, soprattutto di osservare, di osservarci, mentre siamo vittime o artefici di quella che l'autore chiama l'inflazione middle class di vacanze caraibiche, indonesiane, polinesiane, nelle quali si distinguono in particolare i rappresentanti di una giovane Europa, sempre sono queste parole dell'autore, disarticolata e migrabonda, che sfila verso il check-in, ognuno a reclamare la sua porziuncola di Eden. Irresistibile è la cronaca del viaggio, ma il titolo ci parla di una fantasia, effettuato in compagnia di un italiano noto per il suo impegno politico. Dibba lo chiama l'autore, che con lui trascorre qualche giorno in India, un'esperienza di cui queste righe sono una brillante testimonianza. Marco Polo scrisse dello Sri Lanka, già Ceylon, ma Ceyla o Ceylan nel milione, che è la miglior isola del mondo di sua grandezza. Ibn Battuta, giurista berbero e sconfinato viaggiatore del mondo islamico, ebbe un flirt di diversi mesi con le Maldive, dove prese quattro mogli, senza contare le ancelle. Il suo compagno di viaggio, il giramondo Ibn Battista, sembra sfuggire alle seduzioni del tropicario consolidato. C'è in lui una smodata voglia di tugurio, che di solito si spegne alle soglie del tugurio, un'idea di turismo in decrescita che forse non è troppo antitetica al suo vagabondaggio frastornato. Rispetto all'antesignano Ibn Battuta, che peregrinava in lungo e in largo, ma dopo tutto si muoveva in una salda koiné culturale, Dar al-Islam, la casa dell'Islam, Ibn Battista si aggira sprotetto dentro un mondo esploso, i cui confini rispecchiano solo e soltanto la sua capacità di immaginare definizioni fungibili, spesso casuali, precarie come gli umori del momento. Viaggia la Terra come si viaggia a Wikipedia, rotte sbandate e informazioni approssimative, cortocircuiti, senza disegno coerente né prima né dopo. Il suo mantra è una ridondante celebrazione del mentre. Lik et nunc, internettiano social, corredato di agganci a un'alterità preferibilmente autoreferenziale. Se Borges a Tigre Re immaginava la Malesia di Conrad, se Parise a Kama Sutra poteva scorgere come in uno specchio la laguna di Chioggia, Ibn Battista ovunque vada riconosce sempre se stesso in un altro luogo. Così, sta strada mi ricorda quella dove abitavo in Patagonia. A Panama mangiavamo schifezze tipo queste. E all'India è dedicata l'ultima uscita nella collana The Passenger, pubblicata da Iperborea, 192 pagine, 19,50 euro, una guida che anche in questo caso ci fa conoscere i diversi paesi non solo dal punto di vista artistico e naturalistico, ma in una forma più completa che riguarda la cultura, la società, il clima, la politica, la religione. E a questo punto l'ora del classico. Il mattone. Questa settimana ho voluto cambiare genere e segnalarvi, dopo grandi e impegnativi classici della narrativa, un'opera importante nel campo delle scienze sociali, e ho chiesto di presentarcene una a Maurizio Ferrera, docente all'Università degli Studi di Milano ed editorialista del Corriere della Sera. Il mio mattone è un libro che si intitola Capitalismo, Socialismo e Democrazia. L'autore è Joseph Schumpeter, un economista e pensatore politico di origini austriache, che poi è però diventato professore a Harvard. Il libro fu scritto nel 1942, nel pieno della guerra. In giro c'erano nazismo, fascismo, comunismo di marca sovietica. La democrazia era fortemente minacciata. La parte più interessante del libro di Schumpeter è proprio quella dedicata alla democrazia, in cui l'autore lancia una sfida alla concezione classica della democrazia, quella diciamo formulata o associata al nome di Rousseau o degli utilitarismi scozzesi, come quello di Bentham o di Stuart Mill. Secondo la concezione classica, la democrazia è una cornice di regole costituzionali per prendere decisioni che, diciamo, esprimono la volontà generale del popolo riguardo al bene comune. Schumpeter formula due obiezioni a questa concezione. Primo, il bene comune non si può dedurre logicamente a tavolino. Secondo, non può esserci davvero una volontà generale condivisa da tutti, perché i cittadini hanno valori e preferenze diverse e quindi l'unica volontà che si può, diciamo, generare dalla espressione delle preferenze dei cittadini è un qualche compromesso a maggioranza. Schumpeter propone pertanto una nuova dottrina che parte dall'alto e che suona così. La democrazia è un metodo per raggiungere decisioni che consente o si basa su candidati leader che competono liberamente per il voto dei cittadini in modo da arrivare a occupare ruoli di comando e prendere qui decisioni collettive. Il popolo in questa nuova dottrina non esprime una volontà generale che corrisponde al bene comune, ma si limita a selezionare i leader, riservandosi di punirli se questi non agiscono in modo responsabile. Il punto cruciale della dottrina di Schumpeter sono le elezioni libere. I candidati sono, diciamo, controllati dal fatto che sanno di doversi sottoporsi al giudizio degli elettori. Questa concezione della democrazia come metodo è stata molto dibattuta, ma ha avuto una lunga influenza e nel nostro paese fu ripresa da Bobbio negli anni 70, che convinse la sinistra italiana a condividerla. La democrazia è quindi un metodo di arrivare a decisioni pubbliche imperfetto, perché realista, ma per usare la nota affermazione di l'aforisma di Winston Churchill, la democrazia è la peggior forma di governo, eccezion fatta per tutte quelle altre forme che si sono sperimentate finora. Il libro di Schumpeter venne pubblicato originariamente in Italia dall'edizione di Comunità, poi l'ultima edizione è quella di Etas del 1977, 396 pagine. Chi voglia accostarsi al testo in inglese, che viene continuamente riproposto, segnalo l'edizione più recente, quella di Taylor and Francis. Il titolo originale è Capitalism, Socialism and Democracy, 318 pagine, 126 euro. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Michele Previato in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima.